Deborah, metti a posto le antenne perché sembra che chiami da Marte. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Finché la barca va. Sì, siamo un po' tutti sulla stessa barca, più o meno. Ci sono sicuramente delle persone fortunate come noi, continuiamo a lavorare anche se con delle modalità un po' più complesse del solito, però siamo un po' tutti sulla stessa barca e soprattutto stanotte veramente abbiamo avuto la sensazione di dover venire al lavoro con la barca, perché io abito nella zona dove è esondato il Seveso e quindi posso assicurarvi che stamattina raggiungere la radio non è stato proprio banale. Dovevo farlo per forza perché Mauro Meazza oggi non c'è, lo salutiamo in remoto questa mattina, impegnato su altro fronte, quindi dovendo gestire da sola il programma mi sono dovuta adattare ad arrivare appunto in ufficio con nessun mezzo di fortuna, sono riuscita a prendere la macchina. Insomma, perché vi abbiamo voluto raccontare tutto questo? Per nessun motivo particolare, semplicemente eravamo alla ricerca di un modo divertente per iniziare la nostra trasmissione. Con Marco Lombardo, assistente da remoto al programma, ci siamo inventati questa mattina di così utilizzare questa canzone di Orietta Berti, che sicuramente ha accompagnato l'infanzia di molti di noi, sicuramente la mia. E allora saluto Marco Lombardo che ci assiste da remoto, Laura Faggin questa mattina la badante di prossimità che ringraziamo, Filippo Aureggi in assistenza tecnica, al quale ho chiesto: ma come si dice guidare la barca, pilotare la barca? Allora vi invito stamattina con questo quizzettone così a farci compagnia all'800 24 00 24, anzi scriveteci al 349 238 6666 se volete aiutarmi ad individuare il verbo più appropriato per la circostanza. Il numero verde lo utilizzate per un'altra cosa, per le domande sul tema che abbiamo scelto di affrontare in questo ultimo venerdì della settimana. Allora, torneremo di nuovo a parlare della situazione di grande difficoltà nella quale si trovano molte famiglie, chi aspetta la cassa integrazione, chi aspetta un'indennità dallo Stato, chi aspetta di capire se potrà ricominciare la propria attività economico-produttiva. Avete sentito anche le esperienze dei ristoratori appunto interpellati nella trasmissione precedente da Alessandro Milan. In tutte le difficoltà che molte persone si sono trovate improvvisamente ad avere, c'è chi ha fatto ricorso al credito su pegno. Allora, perché non ne vogliamo parlare questa mattina? Ve lo spiego subito, perché la settimana scorsa ad Investire Informati abbiamo avuto come ospite Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, che sul finale del programma ci ha detto che loro hanno attivato da qualche tempo anche questo servizio e stava notando un incremento notevole appunto di ricerca di informazioni su come funziona appunto questa modalità di impegnare dei propri beni, dei propri preziosi, e avevano anche sospeso tutta l'attività di polizze associate al credito su pegno, e quindi eravamo rimasti un po' così in sospeso su queste indicazioni. Avevo promesso in diretta a Gianluca Garbi che avremmo riproposto in una trasmissione un approfondimento proprio su questo argomento, perché ci era sembrato molto interessante. Io vorrei capire stamattina che segnale è, se tante famiglie stanno facendo ricorso al credito su pegno e se può essere un fenomeno paragonabile a quello che si è manifestato qualche anno fa, quando in piena crisi, come ricorderete molto bene perché ne parlavamo molto all'epoca, io conducevo Salvadanaio, esplodevano i comprooro in tutte le città italiane. E quindi come si fa a fare ricorso al credito su pegno, che tutele ci sono per le persone che hanno bisogno, cosa succede quando poi un bene non può essere ritirato, riscattato e quindi va all'asta, tante domande che vi fate, che questa mattina torneremo ad affrontare e a proporre al nostro ospite nella seconda parte della trasmissione. Nella prima stamattina, dopo tutto quello che dobbiamo fare all'inizio, il piccolo giornale radio del risparmio e quant'altro, ecco qua: le barche si portano o si pilotano? dicono gli ascoltatori, questa mattina scarseggiavamo di verbi appropriati. Nella prima parte della trasmissione abbiamo il piacere di avere un gradito ritorno a Due di Denari, che sarà quello di Anna Maria Lusardi, direttore del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria, praticamente la responsabile del Comitato per l'Educazione Finanziaria in Italia. Non la sentiamo da un po', ma questo comitato, proprio per rispondere alla crisi finanziaria delle famiglie, ha elaborato qualche utile suggerimento per ripianificare e riorganizzare le proprie finanze sul sito naturalmente del comitato, sul portale del comitato, quello che conta.gov.it. Eppure essendo a Washington questa mattina abbiamo tirato giù dal letto Anna Maria Lusardi, che ci farà compagnia nella prima parte della trasmissione, ne siamo ben felici. Allora, per tutto questo ribadisco le modalità per intervenire in diretta con noi: 800 24 00 24, se volete ci potete scrivere al 349 238 6666, la barca, ci dicono tanti ascoltatori, si governa. E le barche si timonano e insomma vedo che vi state sbizzarrendo con la vostra fantasia, ci fa molto piacere, quindi magari per qualche secondo così spostiamo l'attenzione su altro, su qualcosa di un po' più leggero che sia diverso dalle grandi preoccupazioni che attanagliano tutti noi in questi giorni. E quindi io saluto anche con affetto l'ascoltatore che mi dà della poveretta, perché non so che cosa devo dire correttamente associandolo appunto alla barca. Filippo, partiamo con il GRR di stamattina. Con Mazza e Rosciani tenete cari i vostri grani. Un paio di notizie, ma ci sembravano molto interessanti. Allora, in attesa di capire in termini pratici, concreti, fino a quando non lo abbiamo in gazzetta, noi, lo sapete, è il nostro modus operandi a Due di Denari, non cominceremo a parlarne. Parliamo del decreto rilancio, la maxi manovra monster da 55 miliardi di euro, e fino a quando non l'avremo in gazzetta noi non cominceremo a raccontarvi tutto quello che c'è dentro. Sicuramente però ci sono tante proroghe per tutti gli ammortizzatori sociali che sono già stati messi in campo nelle ultime settimane per tutte le categorie dei lavoratori. Però c'è qualche cosina che non funziona. Solo 6 lavoratori su 100 hanno ricevuto l'anticipo della cassa integrazione dalle banche, e non va meglio per i prestiti garantiti al 100% dallo Stato in favore delle piccole e medie imprese. A fronte di 165.000 richieste pervenute dal 17 marzo al 13 maggio al fondo di garanzia, solo il 6,2% sono state accolte e liquidate. Scenari che i consulenti del lavoro avevano anticipato già a partire da aprile, perché si erano accorti che i meccanismi erano molto rapidamente inceppati, e che a distanza di un mese trovano conferma nelle risposte di oltre 1.300 iscritti all'ordine nel sondaggio Il ruolo delle banche nelle misure a sostegno di imprese e lavoratori, che è un sondaggio predisposto proprio dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la quale abbiamo il piacere di lavorare molto spesso, soprattutto nei nostri mercoledì del lavoro. Allora, che cosa è stato evidenziato? Con riferimento alla possibilità di anticipo della cassa integrazione per i lavoratori, più della metà del campione interpellato evidenzia in primo luogo i ritardi degli istituti di credito per l'evasione della pratica, quasi al 52%, insieme al numero eccessivo di moduli da presentare, oltre il 50%, e lo scarso impegno degli istituti nel rendere realmente efficace questo strumento. Quindi a ritardare tutto è sempre l'appesantimento burocratico. La situazione non migliora per i prestiti concessi dallo Stato alle piccole e medie imprese, riconosciuti nell'importo massimo di 25.000 euro. Per i consulenti del lavoro le procedure di riconoscimento e accettazione delle domande si stanno rilevando, e lo sapevamo già perché lo denunciamo da giorni, ma è l'ennesima conferma, molto più complesse e tortuose del previsto. La stragrande maggioranza degli intervistati ha riscontrato rallentamenti nella fase istruttoria e soprattutto nella richiesta di documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dal decreto. Una fetta minoritaria segnala anche la richiesta di apertura del conto corrente presso la banca stessa, e quindi se non sei già cliente della banca al quale ti rivolgi, ovviamente si chiede anche una contestuale apertura di rapporto. Torneremo sicuramente sicuramente a parlarne. Un'altra notizia che voglio raccontarvi è invece un'iniziativa predisposta dalla Consulta Interassociativa Nazionale dell'Intermediazione Immobiliare. Praticamente tutte le associazioni che rappresentano le agenzie di intermediazione si sono messe insieme, hanno creato questa consulta e hanno presentato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo e al Ministero dello Sviluppo Economico le linee guida per l'accoglienza sicura. Nella sostanza si tratta di linee guida per contenere le misure precauzionali per contrastare la diffusione del Covid nella gestione delle locazioni turistiche da parte delle agenzie immobiliari. E quindi nella sostanza è un vademecum dove le organizzazioni sindacali di categoria hanno così dato tutte le indicazioni utili ad essere osservate, ovviamente, e tutti gli accorgimenti da adottare per la locazione ai turisti di immobili intermediati o gestiti da agenzie immobiliari, e quindi le operazioni di check-in e check-out, la gestione di eventuali manutenzioni durante il periodo di soggiorno, l'organizzazione della pulizia da farsi prima e dopo la locazione, oltre alla gestione di eventuale comparsa di febbre o manifestazione di sintomi da infezione. E quindi le linee guida per l'accoglienza sicura, questa è l'iniziativa delle agenzie immobiliari che naturalmente guardano con grande apprensione alla partenza della stagione turistica che quest'anno avrà non pochi problemi. Il nostro sportello di Due di Denari e poi il via alla prima rubrica di stamattina. Dillo a Due di Denari. Parlate ogni tanto anche della cosa che sta succedendo in agricoltura, dove i prezzi alla produzione stanno calando mentre alla distribuzione crescono. Io faccio un esempio, quello del latte. A noi adesso siamo arrivati a 35 centesimi il litro, da 40 che eravamo in gennaio. Buongiorno. E questo è il motivo, caro ascoltatore, per cui nonostante tutte le polemiche che ha accompagnato il provvedimento e anche la minaccia di dimissioni da parte del ministro Bellanova, era importante risolvere il problema del trovare i braccianti del settore agricolo, la manodopera, per andare a raccogliere tutto quello che c'è nei campi che in questo periodo è stato fermo, non raccolto, perché poi non si riescono ad approvvigionare negozi, centri commerciali e mercati e i prezzi schizzano. E quindi ha fatto bene a segnalarcelo e noi continueremo ancora a denunciare se necessario questo fenomeno. Via al primo tema di stamattina. Come tante malattie, questo virus è arrivato in modo silenzioso e inaspettato, per poi colpire con crudele brutalità. Si è portato via i nostri cari e ci ha costretto a restare a casa a lungo, intromettendosi così non solo nella nostra vita, ma anche negli ingranaggi dell'economia. Il mondo si è lentamente fermato per combatterlo, ma nel XXI secolo, con la scienza, la tecnologia e l'informazione accessibile a tutti, questo virus non ha speranze. Noi ce la faremo. E buongiorno e grazie di cuore per essere con noi questa mattina, perché a Washington è parecchio presto. Buongiorno alla professoressa Anna Maria Lusardi, direttore del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria. Benvenuta e bentornata, anzi. Buongiorno Deborah, grazie a te di avermi nella tua trasmissione. Abbiamo iniziato la trasmissione sentendo un piccolo stralcio di una delle pillole, perché anche voi avete iniziato ad utilizzare la modalità del podcast, tratta appunto dal sito del comitato, dal portale per l'educazione finanziaria, quello che conta.gov.it, e questa è stata la prima pillola registrata da Anna Maria Lusardi, resa disponibile appunto sul sito, inaugurando questa rubrica che si chiama Dalla scrivania di Anna, perché lo abbiamo detto molto spesso, professoressa Lusardi, lei è a Washington, la sua vita lì, ma negli ultimi due anni in realtà ha viaggiato spesso venendo in Italia da quando le è stato conferito questo incarico appunto di dirigere questo comitato. Anche in tempo di Covid naturalmente l'attività del comitato non si è fermata, ma come abbiamo dovuto fare un po' tutti, anche voi vi siete dovuti inventare dei modi nuovi per comunicare con tutte le persone che hanno avuto da sempre il piacere di seguire le iniziative del comitato. E la prima iniziativa è stata proprio quella direttamente del direttore, che si è messa sulla sua scrivania e ha cominciato a scrivere a tutte le persone che seguono il portale. Professoressa Lusardi, che cos'è questa rubrica Dalla scrivania di Anna? E come hai detto Deborah, è una rubrica che vuole parlare di scelte finanziarie in questo periodo così complicato di crisi, e ne parlo in questa forma semplice scritta, e in questo modo riesco a raccontare le iniziative del comitato, riesco a parlare di anche come fare alcune delle scelte finanziarie così difficili in questo momento, e anche commentare un po' i fatti quotidiani. Ad esempio, nella prima lettera parlo della resilienza finanziaria delle famiglie in questo momento complicato, nella seconda lettera invece parlo ad esempio dei dati OCSE e PISA, della conoscenza finanziaria dei nostri giovani e di cosa possiamo fare ad esempio per migliorarli. È un modo di parlare di questo tema, l'educazione finanziaria, di cui spesso non parliamo, e cerco di farlo in un modo semplice e discorsivo e spero utile a tutti. Ecco, questo è un periodo, ne parlavamo anche all'inizio e sarà anche il tema al centro della seconda parte della nostra trasmissione, in cui molte famiglie riscoprono e hanno riscoperto di essere molto fragili dal punto di vista economico, e noi ne abbiamo parlato spesso con Mauro Meazza, abbiamo scoperto dell'esistenza di molte famiglie letteralmente non in grado di sopportare poche settimane di crisi, poche settimane di mancanza di reddito, e quindi immaginiamo che cosa succederà, insomma diventerà veramente, chissà, speriamo di no, un'emergenza sociale nel caso in cui questa crisi continui nel tempo. Parliamo molto spesso di attività che forse non riprenderanno, che riprenderanno a ranghi ridotti, aziende che stanno ripartendo con molta lentezza, e quindi un po' tutto questo ci richiama, professoressa Lusardi, al concetto della resilienza finanziaria. Questo è un tema che è stato al centro della prima lettera che lei ha voluto scrivere a tutte le persone che appunto seguono il portale. Come ci si risolleva dalla crisi legata all'emergenza Covid-19? Che istruzioni, suggerimenti, raccomandazioni avete voluto fornire? Sicuramente abbiamo preso atto del fatto che questa è una situazione di estrema emergenza, molto complicata, dove è difficile anche dal punto di vista individuale poter far fronte a una situazione di crisi così grave, ma anche nella situazione di crisi a volte dei comportamenti, delle informazioni ci possono essere molto utili. È per questo che durante questa prima lettera ho parlato ad esempio di questi 10 consigli in situazione di emergenza che il Comitato ha messo subito sul portale per accompagnare ed aiutare le persone in questo momento. Ad esempio, sia il governo sia il settore privato hanno messo a disposizione molti sostegni, molti aiuti, ed è importante ad esempio che le persone le conoscono, sappiano anche come prenderne vantaggio. Sappiamo che tra l'altro ci sono anche tante chiaramente difficoltà anche amministrative a volte di fare queste richieste, però è utile saperlo ed è utile poterne prendere atto. In questo momento poi è ancora più importante ad esempio avere un bilancio, sapere controllare bene le proprie entrate ed uscite e poter accumulare un po' di cuscinetto che ci può aiutare ad anche ad affrontare questo momento difficile e questa maggiore incertezza che abbiamo davanti a noi. Un altro suggerimento e anzi un avvertimento è che le truffe aumentano molto durante i periodi di emergenza e quindi dobbiamo essere particolarmente attenti anche a questo. In sostanza abbiamo elencato un insieme di buone pratiche che ci possono aiutare ad essere più robusti in questo momento. E infatti, in cui ci sentiamo, come dicevo all'inizio, anche molto, molto fragili. Adesso ritwittiamo e mettiamo sicuramente sui nostri social. Sta coordinando tutto questo lavoro Marco Lombardo da remoto, questa lista di raccomandazioni che possano essere anche un po' per chi è sfiduciato in questo momento e magari non ha neanche la lucidità di poter dire adesso mi rimetto a riorganizzare la mia vita finanziaria, perché magari è preoccupato, perché ha i figli che non vanno a scuola, perché deve stare a casa a fare lo smart working e non sa bene se se lo stipendio arriverà interamente alla fine del mese. Ecco, non abbiamo tutti la serenità per fare questo lavoro, ma in ogni caso, nel momento in cui potremo riguardare attorno a noi con un pochino di maggior serenità, abbiamo anche un po' di istruzioni per capire quali passi con gradualità fare per rimettere ordine alla nostra vita finanziaria, che è andata veramente in subbuglio per tutti nelle ultime settimane. Nella seconda lettera, invece, professoressa Lusardi, elaborata proprio nelle ultime giornate, c'è un'attenzione particolare ai giovani. Noi abbiamo presentato qui nel nostro programma la settimana scorsa l'indagine OCSE, l'indagine PISA, che riguarda le competenze finanziarie dei giovani, dalla quale ancora una volta è un monitoraggio molto importante, molto rilevante, che va a censire la attitudine appunto di conoscenza di queste materie fra una platea di studenti molto ampia. Ancora una volta abbiamo scoperto che l'Italia non ha una gran bella posizione in questa graduatoria, però anche questo è stato per lei, per il comitato, un nuovo pretesto per tornare a focalizzare l'attenzione sulle competenze finanziarie dei giovani. E poi soprattutto c'è un bel richiamo finale nella sua lettera alle giovani. Lei dice: voglio concludere con un appello alle mamme italiane, voglio stringere un'alleanza e lavorare insieme per l'educazione finanziaria delle ragazze. Partiamo con ordine, qual è il messaggio per i giovani in questo momento e per le giovani? Il messaggio è che è ancora più importante avere questa conoscenza finanziaria di base, perché ci aiuta non soltanto a capire meglio il mondo intorno a noi, ma per decidere bene e per prendere bene le decisioni finanziarie che sono estremamente importanti. I dati PISA ci parlano da una parte della conoscenza finanziaria dei nostri giovani e dei giovani italiani, e ci dicono che i giovani italiani non stanno a sufficienza, ad esempio rispetto ai giovani negli altri paesi europei, ed in particolare ci dicono che c'è una grande differenza di genere, e noi sappiamo, e tanti studi dicono, che questa mancanza di conoscenza è un grave problema. Chi non ce l'ha fa peggio e rischia di restare indietro. Per questo il Comitato non solo è molto appassionato a questo argomento e ad esempio all'educazione finanziaria dei nostri giovani, che è uno dei 10 consigli che abbiamo messo sul nostro portale, ma stiamo lavorando ad esempio a disegnare delle linee guida affinché si possa insegnare bene questa educazione finanziaria nelle scuole, e a costruire dei materiali che possano aiutare i genitori ad insegnare un po' di conoscenza finanziaria ai figli ed in particolare alle figlie. Finisco la mia seconda lettera, come dicevi Deborah, con questo appello alle mamme, che voglio veramente ripetere qui. È estremamente importante che le ragazze italiane aumentino la loro conoscenza finanziaria, solo in questo modo si riesce ad affrontare bene il mondo intorno a noi. La conoscenza finanziaria è essenziale, necessaria oggi per fare bene. Chi non ce l'ha rischia di restare indietro, e questo è troppo costoso nel mondo di oggi, ed è particolarmente importante per le donne e per le ragazze avere questa conoscenza di base. Bene, grazie alla professoressa Anna Maria Lusardi. Solamente gli ultimi 30 secondi per chiederle a che cosa sta lavorando la terza lettera, che tema affronterà. Ci ha già pensato oppure è ancora un segreto che vuole conservare per sé? No, parlerò della nuova iniziativa che sta facendo il Comitato, che è una raccolta dati per toccare il polso della situazione delle famiglie italiane in questo momento, quali sono le difficoltà, in che modo il Comitato può offrire un aiuto e anche per capire ad esempio come riuscire a fare meglio. Una raccolta dati che stiamo facendo adesso, che ripeteremo poi anche nell'autunno, in modo da essere sempre più vicini alle persone, alle loro scelte finanziarie, in modo anche da aumentare ed essere più utili nelle scelte che vengono fatte, e capire in che modo possiamo aiutare in questo momento, come dicevi prima, una situazione di emergenza che richiede anche delle diversi provvedimenti. E come ad esempio mettere un po' l'educazione finanziaria in tutte le cose che facciamo, non soltanto nelle scuole, ma ad esempio nei posti di lavoro. Noi pensiamo, non so, anche di metterle nelle cose che la gente fa tutti i giorni, magari anche dal parrucchiere oppure in farmacia, crediamo che sia estremamente importante, a dire il vero, anche le trasmissioni alla radio. E quindi finisco ringraziando molto la tua trasmissione e di averci dedicato un po' di tempo. Anna Maria, un'ultima considerazione, ogni volta è l'ultima e anche in ritardo, ma vorrei saperlo, possiamo poter dire se quest'anno in qualche maniera ottobre, il mese dell'educazione finanziaria, sarà realizzato? Avete già predisposto un piano B nel caso in cui non potrà essere fatto come negli ultimi 2 anni, con tutta una serie di iniziative che hanno bisogno di un impatto fisico sul territorio, ma state già pensando a fare qualcosa di alternativo nel caso in cui non fossimo ancora ritornati ad una piena normalità, perché purtroppo non ci crediamo moltissimo a questo ritorno di totale normalità per l'autunno? Sì, stiamo già pensando a una forma ibrida, pensiamo di lanciare il mese il 1° di giugno. Il mese ci sarà sicuramente, se non si riesce a farlo di persona, possiamo farlo online, però vogliamo continuare questa iniziativa che ha coinvolto lo scorso anno tutte le regioni, tantissime città. Adesso che ci siamo abituati ad usare la tecnologia, possiamo continuare a farlo. Esatto, e la radio Anna Maria Lusardi ci sarà sicuramente, perché questa va avanti anche con l'esondazione del Seveso, anche con gli ospiti che sono a Washington e che buttiamo giù dal letto senza pietà. Grazie. Grazie ad Anna Maria Lusardi, buona giornata, direttore del Comitato per la Programmazione e il Coordinamento delle Attività di Educazione Finanziaria in Italia. Andate a vedere tutte le belle cose che fanno sul portale quellocheconta.gov.it. Ci fermiamo la borsa e poi parliamo del credito su pegno. Data Breach. Due di denari. Ci ritrovati ancora, una buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, seconda parte della nostra trasmissione. Solo un paio di commenti con gli ascoltatori che hanno preso a commentare tutta la questione dei prezzi dei prodotti agricoli, i prezzi alla produzione che scendono, i prezzi invece al banco del supermercato, al mercato, che stanno lievitando. Io non ho detto che il problema è determinato dalla carenza di manodopera, ho detto che anche quello determina sicuramente uno sbilancio che andava sistemato come problema. Dopodiché i produttori agricoli vedono scendere i prezzi dei prodotti, probabilmente perché non riescono in questo periodo a redistribuirli regolarmente, forse anche a raccoglierli, e di conseguenza anche quello crea uno sbilancio. Ragazzi, ma non è stamattina la puntata sui prezzi appunto dei beni agricoli? Voi intanto continuate a comprarli e, come dire, favorite magari il chilometro zero in modo tale che queste categorie vadano sostenute anche con il nostro piccolo contributo in questo modo. Secondo tema, il BTP Italia, ne parleremo lunedì di nuovo con una puntata speciale, torna il Ministero dell'Economia. Per gli ascoltatori che mi stanno chiedendo, aveva detto che venerdì dava il tasso minimo garantito, non è ancora uscito, quindi me lo state chiedendo in tanti, se il Tesoro da qui alle 12 dovesse darci questa comunicazione ve lo darò, altrimenti lo daremo nel corso della giornata negli aggiornamenti di borsa, e comunque entro serata questa indicazione dovrà essere fornita. Terzo tema, sempre sul BTP Italia, ci sono molti ascoltatori che ci chiedono: ma perché il Tesoro deve, tra virgolette, indebitarsi con i risparmiatori italiani ad un certo tasso di interesse, quando può andare a chiedere questa linea di credito al meccanismo di stabilità per oltre 35 miliardi ad un tasso molto basso? Sono due linee assolutamente diverse, le esigenze in questo momento sono così elevate che si è pensato anche di fare leva sul risparmio privato degli italiani. Chiusa la parentesi su tutti questi argomenti, saluto e ringrazio per essere tornato con noi Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, benvenuto. Grazie. Grazie dell'invito. Allora, ho spiegato il presupposto per il quale questa mattina con lei vorrei affrontare il tema del credito su pegno, perché ho ricordato come settimana scorsa lei fosse stato già ospite nostro, e proprio sul finale avevamo lanciato questa considerazione, perché voi operate anche in questo settore, quindi è un intermediario finanziario che fa credito su pegno con una determinata ovviamente modalità, e ci aveva anticipato appunto che stavate notando chiaramente una crescita di interesse in questa fase, e soprattutto avevate adottato una iniziativa di salvaguardia per i vostri clienti. E quindi le allora si ricorderà, settimana scorsa abbiamo detto, è un tema talmente delicato che forse vale la pena farle fare una bella spiegazione di quello che sta succedendo, e se questo lo dobbiamo un po' considerare un tema di crescita di difficoltà delle famiglie italiane, mi piacerebbe capire che cosa vengono a impegnare e soprattutto che garanzie hanno naturalmente che il mercato sia totalmente trasparente per loro. Allora Garbi, ricordiamo un po' quello che avevamo detto settimana scorsa, grazie a lei. Allora, il credito su pegno nasce dal Medioevo, no? Dalla volontà della Chiesa Cattolica, proprio per nei momenti di maggiore esigenze, nel periodo della peste, dopo la crisi del 29. Il credito su pegno è un modo molto semplice per chiunque di prendere degli oggetti che tiene in cassaforte, che ha sicuramente un valore affettivo, ma di fatto superfluo, perché sono oggetti che oggi peraltro che nessuno può andare in giro, neanche mettersi una collana è nemmeno fattibile, darli a garanzia, ricevere del denaro e successivamente restituire il denaro e riprendersi l'oggetto. Solo a livello nazionale, solo il 5% dei beni che vengono messi a pegno vanno a finire all'asta, vengono venduti. Noi come nostra attività, noi come Banca Sistema abbiamo una controllata che è la Pronto Pegno, dedicata esclusivamente a questo tipo di attività, che presto comprerà anche le attività di Banca Intesa, e quindi tutto quello che è il mondo di Intesa San Paolo rientrerà a far parte della Pronto Pegno. Noi abbiamo notato che addirittura solo l'1% dei beni che viene dato a pegno effettivamente poi le persone non sono in grado di restituire il finanziamento, e quindi siamo obbligati a metterli all'asta. Mm-hmm. È un mercato che da quando chiaramente è partita la crisi del Covid-19 è cresciuto del 20%. Se guardo i primi 15 giorni di maggio, la crescita è del 30%. Le persone che si rivolgono sono imprenditori, sono partite IVA, sono lavoratori autonomi, attori, colf, badanti, e quindi chiunque. È un modo per chiedere un prestito, laddove appunto tutte le modalità per chiedere un prestito in banca questa mattina, pur con le garanzie di Stato, è diventata un'impresa veramente ardua, come dire, un po' possiamo considerarlo una sorta di alternativa proprio alla concessione di un prestito bancario, Garbi, o sbaglio? Assolutamente sì, è la concessione di un prestito con due caratteristiche molto peculiari. Uno è che non viene fatta un'indagine patrimoniale di chi chiede il finanziamento, per cui alla fine se una persona ha altri debiti, ha una situazione dove ha bisogno di finanziamenti, chiaramente in qualsiasi altra forma di finanziamento devono essere fatte indagini patrimoniali e così via. Nel caso del pegno questo non avviene. Si arriva con la garanzia già in mano, chiaramente. Esatto. Uno arriva ed questo è esattamente l'altro aspetto. Uno entra nella filiale con l'oggetto e esce con i soldi, o con un bonifico fatto su un proprio conto corrente, o con una carta prepagata che viene ricaricata contestualmente al pegno. Però Garbini, abbiamo un'immagine ovviamente di questo tema, di questo settore forse un po' cinematografica, e quindi ci immaginiamo di una persona veramente con le pezze al sedere che viene al banco dei pegni con l'ultimo bene, magari quello a cui è più familiarmente affezionato, e l'ultima è proprio l'ultima spiaggia della difficoltà finanziaria, si viene lì, si consegna magari la fede nuziale in cambio appunto di un po' di denaro. Forse magari esisterà anche questo, però credo che esista anche dell'altro, qualcosa che viene fatto in maniera un po' più strutturata, solida e sicura anche per il cliente che ha questa necessità. Ci può spiegare effettivamente quali sono le tipologie di garanzie che una persona ha, che intanto non sia strozzata e che il prezzo del bene che viene riconosciuto è anche abbastanza allineato al vero valore e non esageratamente appunto portato verso il basso, proprio perché si approfitta della persona che è in difficoltà? Allora, due domande sono qui. Allora, primo, il tema della fede nuziale è una cosa assolutamente marginale. E quasi il 10% sono Rolex, giusto per dare, che non è sicuramente un bene, primario, no? Esatto, né affettivamente parlando, sì, magari anzi l'ha pure regalato una fidanzata della quale ci vogliamo sbarazzare nel passato. Vabbè, chiusa parentesi. Sono tennis, collane, sono tutti oggetti, principalmente in oro, perché poi alla fine il 90% quasi del totale rappresentano oggetti in oro, però di quello che dicevo, di un qualcosa di superfluo, certo, magari ha anche quello un valore affettivo, ma non è la fede iniziale, quello è veramente marginale, questo tema. L'altro elemento che riguarda poi la valutazione, qui è la grossa differenza ad esempio con il tema del compra oro. Se io vado dal compra oro vengo tirato per il collo, potrei essere tirato per il collo, e avendo bisogno di denaro accetto qualsiasi valutazione. Qui il bene viene solo dato a pegno, quindi al di là del fatto che poi dietro la pronto pegno c'è una banca, quindi con un sistema di vigilanza anche particolarmente invasivo, però la valutazione viene fatta dal perito sulla base del peso dell'oro, sulla base di questo valore viene applicato tra l'altro un regio decreto del 39, quindi stiamo parlando di una norma firmata dal Re d'Italia che è ancora in vigore, e sulla base di questo viene dato del denaro. Ma alla fine quello che succede è che al di là della valutazione che è fatta sicuramente al migliore prezzo di mercato, tenendo conto anche la fluttuazione futura dell'oro, perché se io faccio un pegno a 12 mesi, io devo tener conto anche quello che potrebbe essere il prezzo fra 12 mesi del valore dell'oro. Quindi un riscatto potrebbe avvenire anche a prezzo molto più alto di quello che pensiamo, così un po' in linea teorica. Uno restituisce il finanziamento e si riprende la garanzia, quindi si riprende il bene nel valore che ha quel bene, quindi il valore del bene può essere aumentato o diminuito, certo, nel tempo, ma non... Uno non si spossessa di un valore, non è che cristallizza il valore. E quello che vorrei però sottolineare in generale sull'attività del Monte di Pietà è che non c'è da vergognarsi di andare a un Monte di Pietà. Il Monte di Pietà sono nati per evitare che le persone vadano a rivolgersi alla criminalità organizzata. In questo momento questo è il grande rischio. I Monti di Pietà sono serviti nel passato e oggi ancora più attuale di evitare che le persone si rivolgano all'amico dell'amico che magari è collegato. È vero, ha ragione. Invece lo associamo sempre proprio ad un momento in cui dobbiamo provare una grande vergogna a ricorrere a questa che consideriamo un'estrema razio. Garbi, ci fermiamo un attimino solo per il traffico e torniamo subito da lei. Due di denari. Non vi ho ricordato il numero verde se volete intervenire all'800 24 00 24, ancora una decina di minuti di tempo di conversazione con Gianluca Garbi, amministratore delegato di Banca Sistema, oppure 349 238 6666. Garbi, ci scrive Mara da Milano. Ho diversi oggetti impegnati che rinnovo in ritardo di mesi quando ho soldi. Gli interessi che mi fanno pagare sono pazzeschi. Interessi su interessi, dimora su tardato rinnovo su custodia, ad esempio anello di valore 20.000 euro, ho avuto 4.000 euro di interessi pagati per rinnovo di 6 mesi, e non le dico, l'elenco è veramente lungo. Io chiedo intanto a questa ascoltatrice se ci può scrivere a due di denari @radio24.it, perché queste sono proprio le situazioni che ci fanno aggrovigliare lo stomaco e che tentiamo di aiutare in ogni modo il nostro sportello pomeridiano di due di denari. L'ascoltatrice dice anche i consumatori non hanno voce in capitolo, magari Garbi la giriamo a lei e le chiediamo se si può risolvere questa situazione. Aggiungo, ma non dico il nome, la banca in questione è anche una nota che ora è diventata un brand anche abbastanza ascoltato come nome, che fa censimenti anche importanti su tutto il fenomeno in tutta Italia. Allora faccio finta di non aver letto questi nomi e non li dico questa mattina, però Garbi, per esempio, una persona che ha un grosso problema con un'altra banca e magari vorrebbe dialogare con un altro intermediario che dia un sostegno all'insegna della maggior trasparenza, fate anche queste operazioni tra virgolette di consolidamento di situazioni già avviate con altri vostri competitor? Allora, purtroppo questo regio decreto del 39 lo impedisce. Proibisce il trasferimento delle polizze e di conseguenza l'unico modo per poter trasferire una polizza è quello di andare a riscattarla, riprendersi l'oggetto e andare da un altro intermediario. Allora qui abbiamo necessità di chiarire l'aspetto della polizza. Arriva la persona che ha bisogno, porta il Rolex, 3 gioielli e ovviamente si fa stimare il valore di questi beni, si dà alla persona in questione l'ammontare economico di cui ha bisogno, il bene viene custodito dall'intermediario, ma che cosa c'entra appunto la polizza? Chi si assicura e che cosa? Voi o il cliente? Allora, la polizza comprende anche l'assicurazione, quindi la persona esce con un titolo di credito che è questa polizza dove viene indicato l'oggetto che è stato dato a garanzia, l'ammontare finanziato e qualora ci fosse un furto di questo oggetto c'è automaticamente la garanzia assicurativa a beneficio del proprietario del bene, perché noi non diventiamo proprietari del bene, noi ce l'abbiamo a garanzia, il bene rimane di proprietà del cliente che ha portato questo bene. Io da questo punto di vista però farei un passo indietro, perché lei ha parlato delle persone che vengono in filiale. È vero, le persone alla fine devono venire in una filiale perché devono consegnarlo il bene, ma proprio per evitare sia il tema del potenziale diffidenza o del avere senso di vergogna. Noi e adesso anche per evitare il potenziale contagio, visto che dobbiamo stare anche distanziati, ecco. La Pronto Pegno ha messo in piedi un'app che uno si può scaricare e prima ancora di venire in filiale può mandare una fotografia del proprio bene, parlare in via chat con il perito, sapere esattamente quanto è il valore, sapere quali sono le condizioni economiche e prendere l'appuntamento per venire in filiale. Quindi il tema che poneva lei del ho impegnato da altre parti, non c'è trasparenza, con l'app, chiaramente dal lato della Pronto Pegno c'è la massima trasparenza. Io ti dico in anticipo quanto, sulla base di una fotografia ovviamente, poi dovrà essere verificato che il bene sia effettivamente in oro e non in altri materiali, certo. Però sulla base di quello io già ti do una prevalutazione del bene, che se viene poi confermato che il bene effettivamente ha quelle caratteristiche, ti viene dato quel determinato ammontare a quel tasso con quel periodo per rientrare, quindi in modo preventivo e non trovandomi nella situazione di essere già arrivato in filiale, magari dopo aver fatto un po' di chilometri di strada eccetera, e di essere a quel punto dire vabbè, sono già qua, accetto qualsiasi condizione che mi viene posta. Questo è un modo, cioè il Pegno purtroppo le ultime evoluzioni sono rimaste ai tempi del Medioevo. Quello che abbiamo cercato di fare è stato quello di dare una rispolverata e un aggiornamento tecnologico al più vecchio modo di finanziare. I monti di pietà sono precedenti alle banche, quindi le banche, i monti di pietà sono diventate banche dopo, quindi abbiamo rispolverato un qualcosa che in questo momento è quello che serve a tutte le persone per ottenere immediatamente del denaro senza troppe complessità e far fronte alle loro esigenze più immediate. Allora, per chi non riesce naturalmente a riscattare, poi ad un certo punto della storia di questi beni, questi devono andare in asta. Con che tempi, Garbi, si attiva anche la procedura d'asta e quindi quanto dura anche la custodia del bene da parte vostra o di chi appunto fa questo mestiere? E quindi ecco, ci chiarisce questo aspetto. E poi c'è una domanda, ci metto anche la domanda di Giorgio da Como, perché poi tra 4 minuti dobbiamo salutarci, quindi almeno risponde ad entrambe. Giorgio, benvenuto e grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, ma che bella vocina, carina. Io vi ascolto sempre, solo che non chiamo mai perché ce ne sono troppi che chiamano. Saluto anche il nostro interlocutore che si interessa. La cosa che mi interessa, perché in passato io ho avuto modo di un paio di volte da ragazzo e allora le cose erano andate bene perché io ero riuscito poi ad andare a prenderle. Ma l'unica cosa che mi sono un po' perplesso e devo chiederla al nostro certo. Personaggio che sa tutto. Ma lui dice che pochissime vengono messe in asta. Io dico una cosa però, quelli che vanno al Monte dei Pegni sono gente un po' già disperata la maggior parte, non tutti hanno i Rolex, adesso questo no, se no, mi permette, non è che voglio contraddirlo, No, Giorgio, noi abbiamo detto che quelli che vanno da loro, che vanno a Pronto Pro, a Banca Sistema, sono quelli che loro hanno, probabilmente magari altri scelgono altri canali e non conoscono. Lui mi stava raccontando quello che succede da loro, Giorgio. Quella che non vadano da quelli che li truffano, i compra oro. Lo so. No, infatti. Però no, l'unica cosa che mi rimane perplesso è che dice che pochissimi vengono messi all'asta. Mm-hmm. Questo mi ha un po' lasciato perplesso. Perché? Perché uno che è già in difficoltà, è difficile che dopo poco tempo riesca ancora ad andare, certo, a prendere. Infatti ho chiesto adesso poco fa, Giorgio, la devo salutare, ma lei mi è tanto simpatico, parlerei con lei tanto, ma non riesco. Dopo quanto tempo il bene va all'asta, Garbi, e in realtà adesso con Covid avete anche un pochino procrastinato i termini, mi pare di ricordare, vero? Esattamente, allora per legge dopo 15 giorni in teoria potrebbe andare all'asta. Noi mediamente aspettiamo addirittura 3 mesi, e in questo momento stiamo aspettando ancora di più, proprio per dare la possibilità alle persone di poter eventualmente rinnovare o riscattare. E fra l'altro durante il periodo Covid abbiamo anche sospeso tutti quelli che sono gli interessi di mora che dovrebbero essere applicati, proprio per dare più tempo alle persone. Il dato che ho dato sul riscatto è che è un dato a livello nazionale, che solo il 5% dei beni va a finire all'asta. Questo è un dato nazionale. Come pronto pegno noi abbiamo un dato ancora più basso, che riguarda l'1%. Concordo sul fatto che ci sono anche persone disperate, però attenzione che non sono quelle la principale fonte di utilizzo di questo meccanismo. Banalmente il 30% che noi vediamo sono persone extracomunitarie che non hanno nessun rapporto con le banche, che nessuna banca gli darebbe mai un finanziamento, e utilizzano questo modo di finanziarsi in modo alternativo, e certo, poi restituiscono il denaro e riprendono il loro bene. Garbi, 3 secondi, devo chiudere a 57. Come si fa a riconoscere un soggetto non legale in questo campo? Guardi, il tema è che bisogna rivolgersi ai soggetti autorizzati. Ecco. Monti di Pietà sono soggetti autorizzati, c'è un elenco, sono pochi in Italia, però c'è un elenco e bisogna andare solo da questi soggetti. Grazie. Allora, se dico agli ascoltatori, se avete bisogno di avere qualche altra informazione, scriveteci a 2didenari@radio24.it, ci faremo aiutare da Gianluca Garbi a capire tutto quello, tutti i pezzetti che vi sono mancati della nostra conversazione di questa mattina. Grazie per essere stato con noi, grazie a tutti. Io torno a casa, farei le borse da casa oggi pomeriggio se è tornata la luce nel mio palazzo. Filippo, che ne dici? Ti aspetto dopo. Ciao.